Ciao a tutte e tutti, questa è la 28ª puntata, state ascoltando Uru come al solito in diretta il venerdì alle 21:30. Prima di partire con la trasmissione vi ricordiamo un attimo i social, il sito wombat.noblogs.org da dove state ascoltando lo streaming e da dove potete ascoltare o scaricare tutte le passate puntate. Ci trovate anche su Twitter, a twitter.com/radiowombatfi, e se volete parlare con noi l'email è posta@wombat-insiberia.net. Uru ha anche un profilo Twitter personale che è uru-rw di Radio Wombat. E quindi 28ª puntata dedicata alla musica, ai suoni del Benin. Benin è un piccolo stato dell'Africa centrale, si può dire confinante un gigante da una parte, cioè la Nigeria, e dall'altra un altro stato simile da un punto di vista della conformazione geografica e anche del profilo, diciamo, geografico, cioè il Togo. E Benin è piccolo da un punto di vista di estensione territoriale, ma una grossa storia. Una storia che diciamo, dava il nome, che ha dato il nome a quello che era il nome dello Stato prima dell'indipendenza, cioè Dahomey. Infatti, nel Benin si è sviluppato negli anni, nel periodo del XV-XVI secolo, il regno del Dahomey, di cui abbiamo parlato in occasione della puntata dedicata alle Amazzoni d'Africa, proprio perché una caratteristica del regno del Dahomey era che all'interno del proprio esercito c'era un corpo di amazzoni, cioè di donne guerriere molto, molto cospicuo, molto deciso, molto determinato da questo punto di vista. Ma non solo. Il Benin ha fornito appunto molta di quella che è l'archeologia, cioè di quelli che sono i manufatti proprio fatti direttamente dal popolo che abitava in quelle zone e che tuttora, essendo stati la stragrande maggioranza di questi manufatti razziati dalle potenze coloniali, Benin attualmente richiede che vengano riportati indietro. Quindi, appunto, seppur un piccolo stato, una grande storia dal punto di vista di quelle che sono le radici africane. Altra cosa caratteristica, altra caratteristica Benin è che c'è una lingua molto particolare, o meglio, una lingua è parlata dall'80% dei meninesi e da una discreta percentuale degli abitanti dei popoli confinanti, in particolar modo del sud della Nigeria, cioè il Fon. Il Fon, che è tra l'altro la lingua in cui vengono cantate, eseguite la stragrande maggioranza dei pezzi musicali che appunto sono stati prodotti in Benin e che vi faremo ascoltare. È una lingua molto, molto figurata. A noi ci ha incuriosito e ve lo riproponiamo il nome, per esempio, dei mesi. C'è da tenere presente che nella lingua Fon è molto presente il suffisso un, che sta ad indicare proprio l'aggettivo, il nome o l'aggettivo di quello che si vuole andare a significare. E ritornando al nome dei mesi, partendo da gennaio, c'è cioè Alunsun, Zofisun, Sveisisun, Lidosun, Nuvasun, Aidosun, Liasun, Avusun, Zosun, Konyasun, Abisun e Vusun. Ma al di là di quelle è la traslitterazione, diciamo, nella nostra lingua, quello che è importante per far capire il fatto che questa è una lingua molto figurata, sono le traduzioni concrete, e cioè gennaio Alunsun significa mese della siccità, febbraio mese della bruciatura dei campi, marzo, cioè Zevisun, mese della prima pioggia dell'anno. Teniamo presente che il Benin appunto è in una zona in cui la stagione delle piogge e anche l'alternanza del freddo e del caldo è molto diversa da quella a cui noi siamo abituati nella nostra zona, insomma in Europa. Quindi aprile, l'Idosum, è il mese in cui si semina il miglio. Maggio è Nuvasum e la traduzione è mese della sarchiatura e così via via. Giugno, mese in cui si seminano i fagiolini. Luglio, mese in cui si raccoglie il miglio. Agosto, mese del freddo. settembre, mese della seconda raccolta del cibo, ottobre, mese in cui si impasta la terra per costruire i muri, novembre, mese in cui il sorgo muore, dicembre è il mese dell'Harmattan, cioè che è questo vento caldo che spira proveniente dal nord, in questo caso, cioè dal Sahara, dalla zona saheliana, e che spira appunto nel Benin, e così in tutte le altre state si affacciano su questa costa, su questo golfo dell'Africa. E parlando di quello che sono le caratteristiche appunto musicali, o comunque quelli che sono i rappresentanti più caratteristici, più significativi del Benin, quello è il primo di cui è obbligatorio sotto certi punti di vista parlare, è che appunto canta spesso in Benin e talvolta in francese, scusate, no, in Benin, in Fon, e talvolta in francese, l'orchestra Polirritmo di Cotonou, che è una cosa, diciamo, abbastanza incredibile come orchestra, cioè come ensemble musicale. Va tenuto presente che l'orchestra Polirritmo di Cotonou affonda le proprie radici, cioè è stata fondata negli anni 70, quando il cantante filarmonicista Clément Melon comincia a suonare in un club di Cotonou, che è appunto la principale città del Benin, anche se non è la capitale è Porto-Novo. E insieme ad altri soggetti, insieme ad altri musicisti, il bassista Gustave Bento, il chitarrista Bernard Zondrun ed altri membri temporanei, e questa è appunto una prima caratteristica dell'orchestra Polirritmo, è che all'interno di questa a comporre questa orchestra si sono seguiti nei vari anni moltissimi cantanti, musicisti beninesi che a sua volta poi successivamente o precedentemente hanno inciso come solisti, tant'è che dei pezzi che facciamo ascoltare tre, oltre all'orchestra Polirritmo, altri tre cantanti, artisti, diciamo, del Benin, hanno fatto parte dell'orchestra Polirritmo Cotonou, nonostante appunto noi vi proponiamo i pezzi come solisti. E comunque, ritornando all'orchestra Polirritmo Cotonou, viene fondata nei lontani anni 60, ispirandosi non solo a quello che è la musicalità, i suoni africani, ma anche a quelli erano i principali soggetti, gli esecutori, gli artisti più conosciuti in ambito musicale dal punto di vista della negritudine, diciamo così, in particolar modo a Jimi Hendrix, James Brown e tutta la pletora di compositori, di esecutori di funky soul. Ma chiaramente questa è solo una parte dello spettro musicale in cui si muovono, tant'è che i loro pezzi includono anche salsa, soukous e soprattutto il vodun, i ritmi del vodun, che poi dopo successivamente spiegheremo meglio. È una miscela prossima sia al rock che al jazz e all'afrobeat, che è sempre stata amatissima e fonte d'orgoglio della popolazione beninese, in particolare dei giovani del Benin, con cadenze appunto poliritmiche, bassi funky, pennellate psichedeliche e via dicendo. Quello che è non tanto sconcertante ma degno di nota è che l'orchestra Polirritmo del Cotonou, pur essendo fondata nei lontani anni 60, tuttora è in attività. Ha inciso circa 500 pezzi, ha composto circa 50-60 LP, più tutta una sterminata discografia di 45 giri, di 7 pollici e via dicendo. Tant'è che almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli europei, diciamo, quasi nessuno dei vinili in cui è stata incisa inizialmente i pezzi dell'orchestra Polirritmo di Cotonou sono reperibili, neppure tramite diciamo, le discoteche, i negozi specializzati, mentre invece sono disponibili in particolar modo le raccolte, diciamo, effettuate da diverse etichette europee a cui abbiamo attinto anche noi, diciamo, per proporvi alcuni pezzi dell'orchestra Polirritmo. Il primo pezzo che vi proponiamo appunto è proprio di loro, uno dei 500 e passa pezzi hanno inciso l'orchestra Polirritmo con Pardon. sito e una vive, me va sotto e una dopo e buono pure ni cacca, pure non ho sotto. Precedentemente nell'introduzione alla musica, ai suoni del Benin e quindi alla lingua in cui vengono eseguiti la maggior parte dei pezzi, che è il Fon, c'è una parola in Fon che è diffusissima nel mondo e tutti conoscono, anche se è stata chiaramente rispetto ai paesi in cui si è poi successivamente diffusa, è stata diciamo traslitterata proprio in inglese, cioè Vodun. Il voodoo, o voodoo come viene chiamato, e in questo ambito, cioè ricordiamo che la lingua Fona è quella maggiormente parlata in Benin, seguita dalla lingua Yoruba, Somba e tutte le altre etnie, e la maggior parte di questi nuclei ha una propria lingua, appunto la lingua Fona, la parola più conosciuta è il voodoo. In questo ambito il voodoo, nell'ambito della socialità, della religiosità del Benin, conserva a tutt'oggi una particolare rilevanza. È un culto che esprime un'articolata visione del mondo, è collegato storicamente con le religioni africane primitive, diciamo tra virgolette, più vicino all'animismo, e la particolarità è che è sorto, si è sviluppato in Benin, ma poi si è successivamente propagato, diciamo così, in altre parti del mondo, proprio perché la tratta degli schiavi ha fatto in modo che da quei pochi che sono riusciti a sopravvivere, arrivare quella percentuale è riuscita ad arrivare in altre parti del mondo, ha portato in queste altre parti del mondo in cui è stata appunto portata come schiave, ha portato la propria religione, e quindi in epoca moderna dalle terre del Golfo di Guinea viene diffuso in terre americane dagli schiavi trasportati con le navi negriere. Quindi il voodoo haitiano non è nato ad Haiti, è semplicemente portato laggiù da gli schiavi originari del Benin, portati ad Haiti e che lì poi hanno continuato le loro pratiche religiose. E così, nello stesso modo, siccome a New Orleans, ad esempio, nonostante sia appunto negli Stati Uniti, c'è una grossa comunità voodoo, o che pratica il voodoo, e che appunto a sua volta l'origine della pratica voodoo in queste, anche a New Orleans e nella zona della Louisiana, deriva proprio dal fatto del trasporto tramite le navi negriere degli africani del Golfo di Guinea, in particolar modo dal Benin. E in Benin il voodoo ha radici millenarie, e la particolarità è che le potenze coloniali non sono riuscite a strappare a togliere questa religione e a metterci il cristianesimo, a impiantarci il cristianesimo, nonostante la dura repressione e i tentativi appunto di evangelizzazione. Quindi, al di là dell'aspetto religioso, c'è un aspetto sociale e sotto certi aspetti anche politico, fa in modo che il Vonun sostanzialmente sia come dire, una sorta di resistenza a una delle maggiori armi di colonizzazione, cioè la religione utilizzate dai bianchi, diciamo così. E addirittura nel 1996 il voodoo è stato dichiarato religione ufficiale dello Stato. E per capire l'importanza del voodoo nel Benin odierno basti pensare che nel 1997, quando il presidente Herku, allora presidente, omise un riferimento al voodoo nel suo giuramento presidenziale, la protesta della popolazione e una sentenza della Corte Costituzionale lo costrinsero a ripetere il giuramento secondo la formula stabilita. Rimarchiamo il fatto che tutti questi aspetti, almeno come lettura, vanno letti nel senso di una pratica, al di là del fatto che sia una pratica religiosa, ma una pratica che si scontra contro le pratiche ufficiali, una pratica popolare, e che nello stesso momento è stata, come dire, una sorta di resistenza, diciamo, alla penetrazione coloniale, un po' come è successo per le pratiche religiose dei neri in America a fine 800, inizio 900, i gospel, la chiesa battiste e via dicendo. Da un punto di vista, diciamo, della religione in sé, il voodoo va detto è una religione monoteista, quindi simile a quella cristiana, che i fedeli offrono sacrifici che esaudiscono desideri e richieste specifiche, ma per sfatare questo mito della sempre legato del voodoo a una presunta, diciamo tra virgolette, religione bestiale, oscura e via dicendo, non ci sono sacrifici umani, e va rimarcato il fatto che questa criminalizzazione, demonizzazione, nel vero senso della parola, del voodoo è stata proprio effettuata da parte di chi deteneva il potere, da parte di chi voleva imporre la religione cristiana per appunto demonizzare le altre pratiche religiose. Quelle a noi, altra cosa interessa in questa panoramica del voodoo, è che ai voodoo è associata una musica, un tipo di musica molto particolare che successivamente si è evoluta e che però comunque affonda le radici delle pratiche religiose voodoo o voodoo, di cui ci sono alcune particolarità. Una è che una musica particolare, una derivazione, diciamo, della musica che veniva eseguita durante le cerimonie voodoo è quella di musica dei funerali, cioè il sato, e che tramite passaggi successivi è una delle forme musicali più conosciute e più eseguite in Benin. L'altra particolarità è che proprio per gli strumenti suonati e proprio per una sua evoluzione è che le orchestre, le fanfare, le brass band fanno parte direttamente di quelli che erano i riti voodoo. E non è un caso che New Orleans sia una delle capitali delle fanfare di strada, le brass band, e che Cotonou e il Benin in generale sia le brass band siano una delle degli strumenti, degli stili della costituzione di gruppi musicali particolari, cioè non sono casuali queste cose, insomma, questi rapporti tra quella è la musica di New Orleans più conosciuta e quella è una delle musiche degli stili musicali più eseguiti nel Benin. E adesso infatti vi faremo ascoltare una brass band e cioè i Gambè, che è una band di circa 10 membri, fondata nel 94, e la particolarità appunto è che hanno una strumentazione proprio a banda, tromba, trombone, tuba, e naturalmente percussioni e voce. La loro musica si trasforma il juju in una musica tradizionale, e la musica tradizionale voodoo, in un suono da big band, cioè da una banda di strada, come sono anche loro, che infatti suonavano spesso per strada. Infatti è proprio una banda di ottoni, una classica brass band, e la loro musica appunto è basata sulla voce e sui poliritmi della tradizionale musica voodoo. Nonostante questa musica tradizionale, appunto, loro l'hanno mescolata con i jazz e la tirano fuori con questi ottoni, quindi hanno un suono veramente particolare. Vi facciamo ascoltare di loro The Jodo. Oh, ọ̀dọ̀ pé àtọ́tọ́dá ó jẹnu kan alẹ́ kó yé wẹ yé tẹ̀yẹ kase yé mẹ́kòkò ìyọ́dọ̀ mẹ́. Àwọn fún tọ́dá ó jẹnu kan alẹ́ kó yé wẹ yé tẹ̀yẹ kase wa yé mẹ́kòkò ìyọ́dọ̀ mẹ́. Àtọ́tọ́ tọ́dá ó jẹnu kan alẹ́ kó yé wẹ yé tẹ̀yẹ kase yé mẹ́kòkò ìyọ́dọ̀ mẹ́. Nuyọ tọ́dá ó jẹnu kan alẹ́ kó yé wẹ yé tẹ̀yẹ kase yé mẹ́kòkò ìyọ́dọ̀ mẹ́. Àtọ́kùnrin dá ó jẹnu kan alẹ́ kó yé wẹ yé tẹ̀yẹ kase yé mẹ́kòkò ìyọ́dọ̀ mẹ́. Adesso parliamo di una, dell'apertura di una nuova aula in una scuola di periferia. Sembra strano che una cosa così possa diventare una notizia, ma in questo caso lo è perché, per due ragioni principalmente. Perché la prima è che quest'aula è stata aggiunta questa scuola è stata fatta nella township di Soweto in Sudafrica e innanzitutto perché è stata costruita usando al posto dei mattoni delle bottiglie di plastica e naturalmente l'organizzazione no profit che l'ha creata spera che questa non sia un'eccezione ma una norma. L'idea ha avuto una gestazione che è durata qualche anno, del resto si trattava di risolvere diversi problemi, primo di tutti la quantità eccessiva di plastica che ogni giorno finisce nelle discariche del Sudafrica. Infatti le associazioni ambientaliste hanno fatto una stima che solo poco più del 20% di questi rifiuti vengono riutilizzati. Quindi nel 2015 è stata cominciata questa scuola. E il secondo motivo è che in Sudafrica c'è una cronica mancanza di scuole in tutto il paese. Quindi questa organizzazione che si chiama Bottiglie per costruire scuole, cioè Battles to Build Schools, ha cominciato con questo contenitore di plastica che una volta svuotato può essere combinato con altri simili, come avviene per esempio con i mattoncini Lego. È usato per creare, con l'aggiunta di strutture stabili, queste dimensioni adatte per essere utilizzate per costruire. I vuoti che vengono recuperati da Johannesburg per costruire una scuola sono state necessarie circa 90.000 bottiglie. Speriamo che questa iniziativa continui. E quindi l'istituto primario si è ribattuto in Sudafrica, adesso nella township di Soweto, adesso la sua scuola di bottiglie di plastica. Hanno iniziato a costruire nel 2015, due o tre settimane fa è stata inaugurata. 90.000 bottiglie di plastica. E ritorniamo ai suoni del Benin, vi proponiamo un'altra un'altra fanfare, diciamo, un'altra brass band di Dottoni, è la fanfare Eyonlé, una fanfare da Dottoni africani tra le più famose del Benin, e che appunto prosegue, continua, è di recente la fondazione, l'inizio, diciamo, di questa fanfare Eyonlé. Continua questa tradizione di strumenti autoctoni dei paesi che abbracciano il golfo di Guinea, dove appunto si mescola la musica Yoruba, la life ghanese e le musiche voodoo del Benin, una miscela musicale che arricchisce le esperienze e le collaborazioni del gruppo e le molteplici collaborazioni del gruppo, tra l'altro che ha collaborato anche con alcune band di strada, diciamo così, fanfare di strada europee. E con la loro, questa musica, la Eyonlé Brass Band, diciamo, ci fa partecipi delle loro radici africane, che coinvolgono non solo la musica, ma anche appunto una musicalità atta alla danza. La Eyonlé Brass Band è un esempio significativo da questo punto di vista, tant'è che anche il nome del gruppo in lingua fona, appunto, significa siamo felici. Vi proponiamo un pezzo che non ha neppure un titolo, anche perché la fanfare Eyonlé ha inciso pochissimo. Questo è un pezzo, diciamo, è stato reinciso, cioè è stato captato, diciamo, registrato dal vivo e poi reinciso, e ha soltanto il numero, diciamo, del pezzo, il numero gli è stato assegnato dall'etichetta, che è AF, detto in italiano, è solo una sigla, AFH555. Questa è la fanfare Eyonlé. Heya, heya, heya, heya, heya, heya, heya, heya, heya, heya, let's go, heya, heya. You let my email be a better. questa era la fanfare Yonle. Vi ricordiamo che Uru appunto va in diretta il venerdì alle 9:30, mentre potete ascoltarlo in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Vi ricordiamo anche che dal sito da cui state ascoltando la trasmissione, wombat.noblogs.org, potete scaricare tutte le puntate precedenti oppure le potete riascoltare direttamente sul sito. C'è poi il profilo della radio, twitter.com/radiowombatfirenze. Anche Uru ha un profilo Twitter che è uru-rw di Radio Wombat. Se siete di Milano o ci capitate in questi giorni, fino all'11 settembre al PAC di Milano in Via Palestro c'è una mostra di arte contemporanea, arte africana contemporanea, dal titolo Africa, raccontare un mondo. Andateci, che vedendo dal sito e dalle opere che ci sono dovrebbe essere veramente interessante. Teofil Dorego, noto come la maggior parte, cioè noto come il Rego, the Godfather o the Grandfather, cioè il padrino o il nonno, come viene chiamato in Benin, musicista, pioniere del funk e del soul del Benin. Ha iniziato la sua carriera musicale in Burkina Faso, ma già nel 61 il Rego torna, stiamo parlando del 1961, il Rego torna in Benin, forma la sua prima band, la Field, e poi nel 66 la sua band definitiva, quella con cui ha suonato per decenni, e cioè i Commandos, e quindi il Rego e i suoi Commandos, un rhythm and blues, soul, funky. Rego e Commando si hanno mescolato questa musicalità con tracce rumba, percussioni, tarre e tanta fisarmonica, a formare un modello che molti gruppi africani avrebbero preso negli anni successivi, tra cui anche appunto l'orchestra a Poliritmo di Cotonou, di cui tra l'altro è stato uno dei primi membri come soggetto, come solista, e come l'orchestra a Poliritmo di Cotonou ha inciso tanto. A parte 845 giri, 4 LP, 4 album a cassetta e 5 CD, ma soprattutto innumerevoli concerti per un periodo che dura oramai da 50 anni. Un cantante si esprime in lingua fonne, appunto vi facciamo ascoltare Hernán Mian Nkou, il Rego. Ya no, na mi anu kunke. We ya wo, na mi anu kun. Sena jizumi, we ya wo, na mi anu kun. Umeni ya tumi, no. Aboe, se domi. Senna ci sono mini, quei yahoo e non mi hanno con un ni kwe ya oe na mnyanu kunu menyi kendo mito. Apoe, sedo nuko liye do ya edo ne. Ricordiamo che siete all'ascolto di Uru, la trasmissione e rubrica di Radio Wombat dedicata ai suoni e alle notizie a paesi dal continente africano. E rispetto sempre al continente africano, le notizie assolutamente non positive, cioè una pesca che distrugge l'ambiente e affama le persone. È un argomento vasto, anche complesso sotto certi aspetti, ma quello che c'è da sapere è che l'attività della pesca sulle coste dell'Africa impegna almeno 12 milioni di persone come attività quotidiana, a cui chiaramente va sommato tutte le famiglie che da questa occupazione traggono il suo sostentamento. E parliamo di una pesca esercitata ancora con metodi tradizionali e che da qualche anno deve fare conto con l'industria estera, arrivata con grandi imbarcazioni, mezzi tra virgolette moderni e metodi anche illegali come la pesca a strascico. E l'area del Golfo di Guinea, in cui appunto c'è il Benin, in cui accanto c'è la Nigeria da una parte, Togo dall'altra e un po' più in là il Ghana, è tra le più colpite da questi moderni metodi di pesca che distruggono l'ambiente. È appunto un argomento vasto di cui magari vediamo alcune notizie in pillole, ripromettendoci di riaffrontare l'argomento in una forma più estesa e più esaustiva in una delle prossime puntate di Uru. Quello che c'è da sapere, diciamo come una sorta di sommario, è che questa concorrenza, tra virgolette, con questi metodi moderni, sempre tra virgolette, proviene prevalentemente dalla Cina, ma non solo, e che la situazione è particolarmente grave nell'Africa occidentale e a sua volta particolarmente grave appunto nel Golfo di Guinea. E chiaramente i danni sono molteplici. L'uso, non solo il fatto che viene utilizzata la pesca a strascico, ma anche con l'uso di esplosivi e di agenti chimici, è una pesca eccessiva e anche se può sembrare un aspetto di meno conto, ma invece è importante soprattutto per la dieta, per il mangiare degli africani, i cosiddetti ricetti, cioè il fatto che viene rigettato in mare tutte quelle specie piccole, di pesci troppo piccoli, che non sono utili o che non generano appunto utili per queste grosse compagnie di pesca, oppure tutte le specie protette come per esempio le tartarughe, squaletti e mammiferi marini che appunto vengono rigettati in mare. Il fatto è che tra le tante cose appunto che non vanno, che tanti prodotti negativi di questo tipo di pesca è che a volte, sempre più spesso, questi ricetti vengono direttamente rivenduti a pescatori illegali e le comunità locali vengono doppiamente colpite da un lato perché appunto vengono gli viene tolto quello è il loro sostentamento quotidiano dal punto di vista della vendita e dall'altro lato proprio perché appunto questi ricetti vengono messi in vendita chiaramente una qualità peggiore di pesce sia dal punto di vista delle proteine ma anche dal punto di vista proprio della salute e quindi vengono acquistate perché molto spesso vengono anche venduti come pesce fresco. Chiaramente questa pesca illegale provoca anche la riduzione drastica della fauna marina, quindi del pesce, e quindi anche qui doppiamente colpiti, uno, perché appunto diminuisce la fauna marina, due, la fauna marina, due, perché appunto per chi pratica, per chi ancora porta avanti la pesca tradizionale, c'è sempre meno pesci. Oltretutto la pesca tradizionale si svolge a pochi metri, a poche centinaia di metri dalla riva e ha sempre permesso un sostentamento economico primario delle piccole comunità che vivono sulla faccia costiera, cioè comunque da mangiare c'era, nel senso che c'era il pesce e tutti quei prodotti che dal pesce, che utilizzando il pesce vengono fatti, vengono prodotti, come per esempio la farina di pesce e tanti altri cibi, tipi di cibi. Danni sociali sulla sicurezza alimentare e via dicendo. Appunto è un argomento molto vasto su cui e tra l'altro si stanno muovendo non solo le associazioni di base dei pescatori ma anche le grosse associazioni ambientaliste, l'associazione ambientaliste sempre tra virgolette mainstream, e appunto questo è solo un assaggio, un sommario di quello che è l'argomento della pesca la pesca che distrugge l'ambiente che affama le persone, da questo punto di vista, di cui ci ripromettiamo di riprendere l'argomento una delle prossime puntate in una maniera più estesa e più articolata, nelle prossime puntate di Uru. Adesso parliamo di un altro cantante, musicista, nato a Locossa, sempre in Benin, è conosciuto soprattutto perché ha fatto parte dal 95 fino alla sua morte nel 2004 della band Africando, e cioè Gnonya Sapedro. Lui è appunto un cantante, un compositore, strumentalista e anche ballerino. Ha abbracciato molti stili di musica, inclusi l'high life e juju, soprattutto ha portato in tutto il Benin una musica tradizionale che è l'Agbaja, che prende il nome dalla regione dove è nato. Lui canta in diversi linguaggi, tra cui francese, ma la maggior parte linguaggi yoruba, eccetera. Vi facciamo sentire di lui Azon Coplon Dundende. Azoe un colon duel. Azoe un colon duel. Azoe un colon duel. Azoe un colon duel. Menu no sunu kucheme. Un L'ultimo pezzo, ci risentiamo venerdì alle 9:30. Ciao.